Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e i mensili in edicola. Leggiamo come sempre un po' qua e là, ovviamente questa settimana è molto caratterizzata anche sui settimanali dallo scandalo del calcio scommesse, scandalo che potremmo dire ogni giorno ci riserva una qualche sorpresa, una qualche svolta imprevista, però Famiglia Cristiana decide di riunire nel suo editoriale due notizie, diciamo, di questi giorni, anche se l'una è già di qualche giorno fa, per trovare una sorta di filo conduttore, riunendo appunto non solo lo scandalo del calcio scommesse, delle scommesse nel calcio, ma anche gli ultimi dati che sono stati diffusi dall'Agenzia delle Entrate, dal Ministero dell'Economia, in materia di evasione fiscale. Due, potremmo dire, infedeltà, due infedeltà che vengono correlate appunto nell'editoriale di Famiglia Cristiana. Naturalmente il tono è molto amaro, il titolo già spiega che i soldi sono il vero collante di questi due scandali, l'unico idolo, i soldi appunto, di un mondo senza valori. Scrive ad esempio il direttore: campioni già ricchi ma evidentemente insaziabili, si fanno corrompere, giocano per finta. Vecchie glorie nazionali, beniamini del pallone, sputano sulla passione ingenua di tanti tifosi, intossicando il gioco più bello al mondo. Brutte ombre su una palestra di vita per tanti ragazzi e giovani atleti. Il calcio scommessa è sintomo di una involuzione morale del paese, insofferente non solo alle regole del gioco, ma proprio alle norme che regolano la convivenza civile di un popolo. È l'Italia dei furbi, non più degli onesti. E quanti anni ci vorranno per recuperare l'immagine pulita del calcio e del paese? E proprio sull'insofferenza alle regole viene il legame con gli ultimi dati sull'evasione fiscale. Forse li avete ascoltati a Radio 24, forse li avete letti sul Sole 24 Ore. Secondo l'ultimo lavoro prodotto da un gruppo di studio, uno dei gruppi di studio che stanno lavorando alla preparazione della riforma fiscale, l'evasione in media pesa per 2.093 euro a contribuente, cioè è come se ognuno di noi contribuenti evitasse di versare ogni anno allo Stato più di 2.000 euro appunto. Questa la distribuzione ovviamente puramente statistica, mai come in questo caso puramente statistica, dell'evasione. Dice però appunto Famiglia Cristiana: questa insofferenza che vediamo, insofferenza alle regole che vediamo nel calcio scommesse, è poi la stessa insofferenza che viene dagli ultimi dati del Ministero dell'Economia sull'evasione fiscale, che in Italia, ricorda, è attorno al 13,5% del reddito dichiarato, come appunto lo ricorda se ogni contribuente sottraesse all'erario 2.093 euro. Ma non basta, perché all'evasione va a sommarsi il lavoro nero, che incide poi negativamente sulla nostra economia. In Italia il sommerso fa mancare alle casse dello Stato una cifra superiore ai 200 miliardi di euro, soldi che permetterebbero di dimezzare il mostruoso debito pubblico. I soldi che non entrano nelle casse dello Stato sono sottratti ai servizi per i cittadini, alle scuole, alle famiglie con i figli, agli anziani, alla sicurezza, alle fasce più deboli della popolazione. Un capitale che si perde, che penalizza la crescita del paese e gli onesti che finiscono per pagare due volte, per se stessi e per gli evasori. Al calcio scommesse, tra l'altro, dedica la sua copertina e anche il suo servizio di apertura Vita, il settimanale del no profit. Vita già in copertina prende appunto una posizione molto dura, dice: calcio, ultima puntata. Le scommesse sportive muovono un giro d'affari da 80 miliardi di euro, un'epidemia sociale, così scrive la copertina di Vita. Ma anche un'epidemia sociale che travolge i campioni, ma anche centinaia di migliaia di italiani che hanno il vizio del gioco, perché infatti nel servizio poi a cura di Marco Dotti si ricorda che si scommette su tutto e gli stati ricavano gran parte delle loro entrate fiscali proprio da queste scommesse. La scommessa non è una prerogativa, una peculiarità italiana, molti paesi usano scommettere e scommettono anche parecchio. Dice Dotti: gli stati agiscono un po' come moderni epigoni di quel regno di Napoli che nel 1862 legalizzò il gioco del lotto, speculando sia sulle concessioni che nella gestione dello stesso. Allo stesso modo, la crisi economica che è iniziata nel 2008 pare non abbia influito sul settore dell'azzardo. Dalla Banca d'Italia, prosegue Vita, apprendiamo che dalle varie tipologie di gioco attraverso i monopoli, nello stesso annus horribilis 2008, l'erario ha incassato 12,9 miliardi di euro netti di entrate tributarie, che è naturalmente solo una quota di quanto giocato. Un trend in costante aumento, perché a fine 2011 in tutte le sue forme il gioco d'azzardo legale, quindi non stiamo contando altre forme di scommessa di tipo clandestino, il gioco d'azzardo legale, ripeto, taglierà il traguardo degli 80 miliardi di euro. L'anno scorso, nel 2010, i miliardi raccolti sono stati 61,5, quindi una progressione inarrestabile di questa passione per le scommesse che davvero sembra averci travolto un po' tutti, e appunto ha finito per coinvolgere anche gli sportivi campioni di oggi o campioni del passato. Questo è il sax di John Coltrane. Se vi capita di seguire questa trasmissione, sapete che da qualche settimana utilizziamo la nostra collana che stiamo presentando in edicola dei Miti del Jazz per mettere anche qualche assaggio di buona musica. Davvero un assaggio, in questo caso il sax di John Coltrane che esegue Blue Train. Blue Train, tra l'altro, è il titolo di un album che viene considerato abbastanza importante nella storia di John Coltrane, sì, un album che lui incide alla fine degli anni 50 e con un sestetto, appunto, e che segna un po' una prima svolta nella sua formazione artistica. Magari domani, approfittando sempre di questo CD che diamo con questo libretto che poi ricorda la vita di John Coltrane, appunto le sue incisioni più famose, eccetera, è una piccola antologia di questo grande jazzista, ecco, magari sentiremo qualche altro brano altrettanto fondamentale nella carriera di Coltrane e, diciamo, nella storia del jazz, perché poi Coltrane ha segnato molto la storia del jazz, era famoso ad esempio per i suoi assoli. Nel volumetto che accompagna il CD che trovate in edicola si ricorda che a un certo punto le performance di Coltrane raggiunsero delle lunghezze inusitate e ci fu un brano, si chiama My Favorite Things, che arrivò a durare quasi un'ora intera. Poi commenta appunto lo stesso libretto, si discute se poi questo abbia avuto un'influenza positiva per davvero, perché poi ci sono stati molti musicisti desiderosi di emulare Coltrane che però in realtà esauriscono le idee e la verve molto prima di aver finito a soli anche meno ambiziosi di questo. Allora, restiamo in qualche modo in argomento di tasse. Parlavamo di quanto portiamo allo Stato tutti gli anni scommettendo sempre di più. In queste settimane, in questi mesi però, si è parlato molto anche di riscossione delle tasse, si è parlato molto di Equitalia, ci sono state proteste anche violente, non giustificabili, e atteggiamenti addirittura aggressivi nei confronti degli esattori di Equitalia. Panorama questa settimana ha una storia carina, che è appunto una intervista fatta da Marco Cobianchi a una esattrice, una signora appunto che lavora per Equitalia e per lavoro consegna le cartelle esattoriali, cioè insomma consegna le richieste delle tasse arretrate da pagare. Certo, potrebbe non essere il lavoro più semplice del mondo, ma questa signora appunto sentita da Panorama, una signora fiorentina di 42 anni, per anni, dice, ha portato cartelle delle tasse non pagate a famiglie e imprenditori. Racconta qua e là, insomma, qualche ricordo. Dice: certe persone mi hanno fatto entrare in casa, mi hanno aperto i frigo. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi stavo raccontando da Panorama questo incontro di Marco Cobianchi con una signora che di mestiere porta cartelle esattoriali da pagare, consegna le cartelle esattoriali, cioè lavora per Equitalia, appunto la società che si incarica di incassare, di riscuotere le imposte non pagate. Questa signora di Firenze, poi capirete perché insisto nel ricordarvi questo particolare, questa signora di Firenze appunto a Cobianchi spiega un po' delle cose che le sono capitate. Dice che anche loro ovviamente facendo questo lavoro si rendono benissimo conto che spesso magari consegnare una cartella esattoriale significa mettere a rischio la sopravvivenza di un'azienda, e dice beh, sono i casi più drammatici per noi. È vero che spesso troviamo imprenditori che hanno dovuto scegliere o pagare l'IVA oppure pagare i dipendenti. Poi naturalmente ci sono i furbetti. Le chiedono, ma viste dall'ultimo anello della catena dell'inferno fiscale, le tasse sono troppo alte o non sono troppo alte? La sua risposta è diplomatica e brillante, dice più che altro sono complicate, sono difficili da capire e probabilmente sono troppe. Tra l'altro, che le tasse vadano pagate, questa signora che si chiama Lara è stata costretta a dirlo addirittura a sua madre, perché racconta, un giorno dovetti consegnare delle cartelle nella via dove ero nata, dove abitavano anche i miei genitori. Controllo e una di queste cartelle esattoriali era per mia madre. Suono al campanello e lei mi apre tutta contenta, credendo che fossi lì per fermarmi a pranzo. Quando le disse la verità, la mamma si arrabbiò. Io le dissi, mamma, sono la tua figliola, però adesso sono un pubblico ufficiale e se non mi paghi mi tocca pignorarti la televisione. Beh, insomma, d'altra parte è vero che il lavoro va fatto seriamente e anche il lavoro di consegnare cartelle esattoriali, per quanto non sia gradevole naturalmente per i destinatari, è un lavoro che non può fermarsi per il fatto di dover consegnare la cartella alla mamma, e così è quello appunto che è accaduto, come riferisce Panorama. Vorrei cambiare un attimo, vorrei varcare i confini patri per passare all'Economist. Avete magari letto sui giornali già ieri, l'Economist dedica 14 pagine all'Italia questa settimana, con una copertina molto aggressiva nei confronti del nostro Presidente del Consiglio, che viene descritto in un modo molto pesante. Non è la prima volta, già l'Economist 10 anni fa si era lanciato in una critica molto pesante a Silvio Berlusconi, torna più o meno sugli stessi toni anche questa volta. Il titolo dice più o meno l'uomo che ha fregato una nazione intera, questo è il titolo di copertina. Però al di là dell'aspetto appunto che può sembrare quasi di accanimento personale nei confronti di Berlusconi, io invece vorrei andare a pescare qua e là da queste 14 pagine, che non sono affatto tutte dedicate al Presidente del Consiglio, ma piuttosto cercano di tracciare appunto con un taglio molto economico, come si addice al settimanale, un po' il ritratto del nostro paese. Non ne emergiamo tanto bene. Luca Rinaldi ed io, preparando la puntata, ci siamo resi conto che effettivamente il lavoro fatto dai colleghi dell'Economist è molto accurato e che alcune cifre ci mettono abbastanza in difficoltà. Non so, ad esempio il prodotto interno lordo per persona, che risulta come media annuale non solo al di sotto della media OCSE ma addirittura in negativo. L'inevitabile constatazione che negli ultimi 20 anni siamo una delle nazioni che è cresciuta meno di tutte, e sono tutte cose che vengono ricordate in queste 14 pagine appunto che l'Economist ha scelto di dedicare all'Italia. Due dati però ci sono sembrati più importanti, magari sono noti ma come dire non fa male ricordarseli, e sono la gerontocrazia, cioè il fatto che spesso il potere sia in mano a persone anziane. Questo naturalmente senza voler offendere nessuno né voler mancare di rispetto all'esperienza, però il potere, come dire, per arrivare a dei posti veri di potere i giovani debbono attendere molto molto molto a lungo. E l'altro dato veramente preoccupante è quello della nostra esportazione di cervelli, cioè noi esportiamo cervelli. Ci c'è un grafico proprio sull'Economist che mostra come rispetto ad altre nazioni nostre dirette concorrenti, si parla della Germania, della Francia, della Spagna, della Gran Bretagna, noi siamo uno dei pochi paesi che ha, come dire, un saldo netto negativo, nel senso che esportiamo laureati, esportiamo cervelli, e spesso questi cervelli, come racconta l'Economist, prendendo un po' di qua e di là da aneddoti e storie varie, non hanno poi nessuna voglia di tornare nel nostro paese. Siamo peraltro un paese che sta invecchiando, quindi anche il fatto di perdere giovani di talento, appunto, diventa ancora più preoccupante. Riferisce l'Economist, le università in America e in Gran Bretagna sono piene di accademici italiani troppo ambiziosi per starsene seduti per decenni ad aspettare di fare una carriera in Italia. Le burocrazie internazionali come la World Bank, il Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE, sono piene di italiani che hanno dei PhD, cioè delle lauree, delle specializzazioni. Bruxelles stessa è un altro posto scelto dagli italiani per fuggire appunto dall'Italia. L'Italia è un grande fornitore di eurocrati, appunto burocrati della comunità europea. Molti dei laureati italiani scelgono di scappare dal sistema delle raccomandazioni o dalle connessioni, dalle necessarie parentele che appunto ci imputa l'Economist bisogna avere nel nostro paese per lavorare. Va detto che questo ritratto fatto in queste 14 pagine, se qua e là ha dei toni, diciamo, un po' da turista distratto e magari superficiale, invece quando ricorre alla forza dei numeri, come in questi casi, è davvero impietoso, ma non sembra per niente sbagliato. Cerchiamo di lavorare perché le cose cambino in qualche modo. Io vi ricordo un mensile che parla di lavoro, l'impresa Rivista Italiana di Management, è in edicola col numero di giugno, e ve lo ricordo perché appunto dice: manager, è tempo di cambiare. Beh, visto quello che abbiamo potuto leggere sulla stampa straniera, forse è proprio vero, è tempo di cambiare, nel senso che è tempo di cambiare stile, anche lo stile manageriale, come riferisce poi appunto nell'articolo Andrea Notarnicol, nell'articolo All'Interno, è il momento di mettersi un po' di più in discussione. Questo ricorda l'impresa che trovate in edicola per il numero di giugno. Con questa segnalazione si conclude la nostra puntata di Magazine 24. Grazie a Mauro De Angeli che questa mattina mi ha assistito in regia. Io vi posso già anticipare che domani troverete una nuova puntata dei racconti d'autore in vendita con il Sole 24 Ore. Questa volta avremo John Fante, un grande, grande romanziere e scrittore americano, forse non così conosciuto in Italia, ma ne parliamo meglio domani, se volete, alla stessa ora con Magazine 24. Buona giornata.